storie italiane. Il re della montagna dorata. C'era una volta un ricco mercante che decise di caricare tutte le sue ricchezze sulle sue due navi e portarle in terre lontane per diventare ancora più ricco. Ma purtroppo le due navi naufragarono, lasciandolo povero. Tutto ciò che gli rimaneva era il suo figlioletto e la sua terra. Una sera andò a rilassarsi nella sua terra, dove gli fece visita un nano chiamato Mannichin. Amico, perché sei così addolorato? Cosa turba così profondamente il tuo cuore? Ho perso tutte le mie ricchezze. Sono preoccupato per mio figlio. Chiedi ciò che vuoi e io te lo darò. Ed in cambio mi darai la cosa a cui tieni di più che tieni a casa, diciamo tra 12 anni da oggi. D'accordo. Mentre il mercante tornava felicemente a casa, suo figlio gli venne incontro e si attaccò alla sua gamba. A quel punto si rese conto di ciò che aveva fatto, senza pensare, e si spaventò. Andò di sopra a controllare il suo baule e lo trovò vuoto. Pensò con sollievo di essere ancora in tempo a rifiutare il denaro, quando sarebbe arrivato. In ogni caso, qualche giorno dopo tornò in soffitta e trovò il baule pieno d'oro. Diventò ancora più ricco di quanto fosse mai stato. 12 anni dopo giunse il giorno di dover dare suo figlio al nano. Figliolo, devo svelarti una cosa molto brutta che ho commesso. Padre, non preoccuparti, non ci succederà niente di male. La notte precedente il figlio era stato visitato da una fata magica che gli aveva predetto una gran fortuna e come ottenerla. Sapendo questo, portò suo padre al luogo dell'appuntamento col nano, fece sedere suo padre e disegnò un cerchio attorno a loro. Da lì a poco arrivò il nano e chiese di avere quello che gli spettava, ma una forza magica gli impedì di entrare nel cerchio. Buon vecchio mercante! Hai preso ciò che ti ho dato. Ora consegnami quello che mi spetta. Mi dispiace, amico mio. Lui è mio figlio e non posso proprio dartelo. Bugiardo! Avevi promesso! Amico mio, se me lo permetti, ho una proposta da farti. Il nano e il bambino raggiunsero un accordo. Hazel salì su una barca che suo padre spinse in mare, così da far decidere alle onde il destino del bambino. Dopo essere stata alla deriva per un po', la barca si venne a trovare in acque agitate e si capovolse. Il mercante fu molto addolorato per la perdita di suo figlio. Il nano invece si sentì soddisfatto per aver ottenuto la sua vendetta. I due uomini si allontanarono. Tuttavia, il giovane Hazel sopravvisse e riuscì a rimanere a galla sulla barca, alla deriva, e pochi giorni dopo arrivò su una strana riva, con un palazzo molto grande e una montagna dorata. Il giovane Hazel entrò nel palazzo e lo trovò vuoto. Poco alla volta la sua gioia si trasformò in disperazione, mentre cercava in ogni stanza. Finalmente si imbatté in un serpente bianco attorcigliato e ne fu terrorizzato. Ciao viaggiatore, sono la principessa Nuada. Sono intrappolata in un incantesimo che potrà essere rotto solo se tu ti farai picchiare da 12 uomini che verranno qui la notte. Dovrai soffrire questo per 3 notti, così l'incantesimo si romperà e io tornerò alla forma umana. A quel punto ti farò tornare in salute e ti sposerò. Così potremo regnare sui nostri sudditi come re e regina della montagna dorata. Hazel accettò e gli uomini vennero e lo picchiarono finché l'incantesimo fu rotto. La principessa tornò ad essere una donna e riportò in vita Hazel. Tutti i sudditi vennero per il loro matrimonio. Il re e la regina diedero alla luce un bel bambino. Passarono 7 anni e Hazel ripensò a suo padre e disse alla regina che desiderava tanto andare a vederlo. Insistette così tanto che la regina fu costretta ad accettare, seppur con riluttanza. Diede al marito un anello e gli disse: «Non dovrai mai desiderare che io e tuo figlio veniamo nella casa di tuo padre!» Hazel accettò, chiuse gli occhi desiderando di raggiungere la città di suo padre, dove si ritrovò quando riaprì gli occhi. A Hazel non fu permesso entrare in città a causa dei suoi vestiti e così fece un patto con un pastore che lo portò alla casa di suo padre. Trovando suo padre gli disse: «Padre, sono io, Hazel! Mio figlio è morto così tanti anni fa e io l'ho visto morire. Padre, guarda il mio segno, sono tuo figlio e sono re di una terra lontana. Ho una regina e un figlio. Tu sei mio figlio, ma non sei un re, sei un pastore. E dov'è la tua famiglia adesso?» La regina arrivò molto infelice, ma, per quanto furiosa, rimase calma in attesa. Hazel la portò sulla stessa riva da dove era salpato. Si addormentò sulle gambe del suo amore. La regina riprese il suo anello e tornò al suo palazzo con suo figlio. Quando Hazel si svegliò e capì cosa era successo, capì di non poter tornare da suo padre perché non gli avrebbe creduto. Decise così di incamminarsi per trovare la via per trovare la sua famiglia. Da qualche parte lontano, tre giganti stavano combattendo per la loro eredità, che consisteva in tre oggetti: un mantello che ti rendeva invisibile, un paio di scarpe capaci di portare chi le indossa dove vuole e una spada che può uccidere tutti tranne chi la usa. Molti giorni dopo essere partito, Hazel arrivò dove i giganti litigavano e, vedendo gli oggetti, offrì di sistemare il litigio, ma ingannò i giganti, spiegando loro che avrebbe dovuto indossare gli oggetti per poterli valutare. Quando li ebbe indossati tutti e tre, svanì. Raggiunse così le rive della Montagna Dorata, in tempo per assistere a un'enorme celebrazione. Usò così il mantello che lo rendeva invisibile, penetrò nella folla e capì che la regina stava per sposare un altro uomo. Si arrabbiò moltissimo. Indossando ancora il mantello, Hazel raggiunse la grande sala da pranzo, dove i festeggiamenti erano in corso. Decise così di dare alla regina una lezione. Prendeva il piatto e il bicchiere ogni volta che lei cercava di mangiare o bere. Preoccupata e turbata, la regina si alzò e lasciò la sala per rifugiarsi nelle sue stanze, dove scoppiò a piangere, pensando a quello che le era successo. A quel punto Hazel si tolse il mantello e, per quanto in stato di shock, la regina fu felice di vederlo. Hazel però andò su tutte le furie, le urlò contro e le lanciò cose fino a farla piangere. Ancora furioso, tornò nella sala e gridò: «Sudditi del mio regno della Montagna Dorata! Sono tornato e questo matrimonio è cancellato!» Detto questo, si rese però conto che tutti i nobili e tutta la gente rideva di lui e, sempre infuriato, brandì la sua spada e gridò: «Via tutte le teste, tranne la mia!» L'incantesimo della spada funzionò e tutti, compresa la sua amata regina e suo figlio, caddero decapitati. Solo a quel punto realizzò cosa aveva fatto e capì che nessun livello di avidità e ira merita il sacrificio di una sola famiglia. Pianse, si sedette sul suo trono, ma ormai era il re solitario della Montagna Dorata. Fine.